Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo col visitare due straordinari paesi. Il primo è il Sudafrica, dove ci accompagna Dominique Lapierre, lo scrittore celebre per i suoi libri reportage su alcuni dei punti più caldi del pianeta. È stato appena tradotto di Lapierre, un libro che ha avuto un grande successo in Francia e negli altri paesi, si intitola Un arcobaleno nella notte, pubblicato dal Saggiatore, 348 pagine, 17,50 euro, ed è tradotto da Elina Clercy Imberciano. Parliamo in questo libro delle origini e dello sviluppo del Sudafrica, appunto, di questo paese, a partire dal 6 aprile 1652, quando Jan van Riebeck sbarca nella penisola all'estremità meridionale dell'Africa, appunto, dove è stato spedito dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali per costituire una base di appoggio logistico per le spedizioni olandesi che circolavano in quei mari. Anzi, pare che la missione che era stata affidata a Van Riebeck fosse quella di dotare di verdura fresca, per evitare le epidemie di scorbuto, appunto gli equipaggi olandesi. E quindi, al seguito dell'olandese di Van Riebeck, arriva un gruppo di olandesi intrisi di forte, profondo spirito calvinista e convinti di dover dare vita a una nuova società nel segno di una particolare predilezione divina. Forti di questa convinzione, gli olandesi si espanderanno a nord, daranno vita a due repubbliche, combatteranno duramente contro gli inglesi, la famosa guerra dei Boeri, e si consolideranno finché nel 1948, con la vittoria elettorale del Partito Nazionale Purificato, codificheranno il più rigoroso e famigerato sistema di apartheid, come lo chiameranno, rispetto alla maggioranza, alla stragrande maggioranza di colore che vive in quei territori. E qui naturalmente abbiamo la storia degli ultimi anni, fino alla dura e lunga lotta per rompere la segregazione razziale, la faticosa fase di trapasso e gli sforzi della minoranza bianca fino all'ultimo di mantenere quantomeno un potere sostanziale di veto sulle decisioni della maggioranza della popolazione, che appunto è di colore, e alla vittoria di cui è stato simbolo Nelson Mandela. E quindi questo è veramente un libro appassionante, appassionante come un romanzo, sul quale sentiamo ora l'autore. Buongiorno a Dominique Lapierre. Buongiorno, buongiorno. Signor Lapierre, nel suo libro lei insiste molto sulle radici calviniste, religiose, degli olandesi che andarono a fondare il Sudafrica e che poi diedero vita al regime dell'apartheid. Com'è possibile che un gruppo così ispirato a valori religiosi abbia dato vita a un sistema così inumano di segregazione? Ma il sistema era un sistema di protezione. Quando gli olandesi hanno creato l'apartheid, erano 4 milioni di bianchi in un mondo di 25 milioni di neri. E per questi bianchi la unica maniera di poter sopravvivere a questo oceano nero era di creare un sistema di separazione totale. Ma questo sistema fu, abbiamo visto, un sistema diabolico, barbaro, dell'apartheid. E lei come si spiega che il mondo per tanti decenni abbia tollerato questo sistema? In fondo sì, ci sono state le sanzioni, ma non c'è stato, credo, una effettiva presa di posizione. Se il mondo avesse deciso di costringere il Sudafrica a rompere l'apartheid, ci sarebbe riuscito. Perché il Sudafrica riuscì a mantenere questo sistema? Perché il nostro mondo è un mondo barbaro e è realmente un scandalo che l'apartheid ha potuto rimanere durante 60 anni. Ma nel mio libro, Un arcobaleno nella notte, mi è interessato anche molto a eroi di questo paese. Io penso che un uomo come Nelson Mandela è un uomo della dimensione del Mahatma Gandhi nell'India, è realmente un gigante della umanità, un uomo che dopo 27 anni di prigione bianca, quando esce dalla prigione, chiama tutti i popoli del Sudafrica a creare una nazione arcobalena. non chiama alla vendetta dei neri contro i bianchi. Io ho incontrato nella mia investigazione eroi anche come Helen Lieberman, una madre Teresa sudafricana. E tutti questi eroi sono realmente giganti della nostra umanità. Lei infatti cita la signora Lieberman e il professor Barnard, ben noto anche in Europa. Come mai nei bianchi così pochi riuscirono a rompere questo muro? Questo è la storia di un arcobaleno nella notte. Si deve leggere questa epopea di coraggio, di speranza di alcuni bianchi contro la dittatura dell'apartheid. Una delle esperienze più interessanti delle quali lei parla nelle ultime pagine del suo libro è la riconciliazione che fu affidata. Sì, per me Salvatore, è realmente la cosa straordinaria di questa epopea storica, che non si termina in un bagno di sangue. E io penso che realmente grazie a un uomo come Nelson Mandela, che chiama alla riconciliazione di tutti i popoli di Sudafrica, è realmente un esempio per tutto il mondo. E per me, che conosce molto bene un paese come Israele, che peccato che non abbiamo in Israele un Nelson Mandela per fare la pace. Beh, forse manca un palestinese che accetti l'esistenza di Israele. Sì, ma però uomini di questa dimensione sono realmente regali per tutta l'umanità. Certo. Sono molto, molto onore di aver potuto scrivere un arcobaleno nella notte, anche perché tutti i diritti d'autore vanno a Calcutta per sostenere la mia azione umanitaria per i più poveri dei bidonville della città di Calcutta e del delta del Gange. Quindi un ponte fra il Sudafrica e l'Asia. Grazie Dominique Lapierre. Grazie a tutti i miei amici d'Italia. Io vorrei dire che Italia è un paese fantastico, realmente. Io ho trovato qui in Italia più generosità, più apertura del cuore che in nessun altro paese. Grazie Dominique Lapierre. Grazie. E proprio all'eroe di questa epopea è dedicato l'ultimo libro di Jack Lang, che si intitola appunto Mandela, il libro dedicato al padre della patria del Sudafrica. Jack Lang è l'ex ministro della cultura francese, esponente di spicco del socialismo europeo, che ha dedicato questa biografia pubblicata da PM, 236 pagine, 16,50 euro, tradotta da Roberto Boi e Viviana Vuskovic. Dal punto più meridionale dell'Africa passiamo al punto più alto dell'Asia, e cioè al Tibet, una regione ugualmente affascinante e tormentata. Vi segnalo di Christoph Ransmayr innanzitutto La montagna volante, pubblicato da Feltrinelli, 318 pagine, 19,50 euro, tradotto da Claudio Groff. L'autore è uno scrittore austriaco che si cimenta qui con una narrazione dallo stile particolare, dalla composizione a bandiera o volante, cioè in ritmi liberi. L'esperimento è riuscito, mi pare. Si tratta della storia di due fratelli irlandesi, uno è un uomo di mare, l'altro è un informatico che si è ritirato nella propria fattoria di campagna, e che partono per impulso del secondo alla ricerca di una vetta misteriosa che fa parte della catena dell'Himalaya. L'esito della storia sarà tragico, ma la narrazione è appassionante non solo per la descrizione dell'avventura e dell'ambiente circostante, ma anche per il riferimento all'origine dei due fratelli, dominati dal ricordo del padre, fervente cattolico e simpatizzante per i terroristi. L'altro libro che vi segnalo è quello di Peter Hopkirk, Alla conquista di Lhasa, pubblicato da Delphi, 378 pagine, 24 euro, tradotto da Giovanni Luciani, che è una storia affascinante, veramente, dei molti tentativi di raggiungere questa terra misteriosa che era rimasta tagliata fuori dal mondo per secoli. Il primo occidentale, tra l'altro, che vi arrivò fu un italiano, Odorico da Pordenone, nel XIV secolo. Il Tibet diventò accessibile praticamente solo nel 1904. 1944, quando vi arrivano gli inglesi, che sono riusciti a battere i russi nel tentativo di controllare attraverso quel territorio l'intera Asia centrale. E proprio a questo tema l'autore Peter Hopkirk aveva dedicato un libro che ha avuto un certo successo, cioè Il Grande Gioco. Questo, alla conquista di Lhasa, è un viaggio molto interessante nella storia, nella religione, nelle abitudini e nella cultura di questo paese lontano e dei suoi abitanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ieri si è svolta la manifestazione organizzata dal Partito Democratico, una manifestazione che in qualche modo ripropone il tema anche dell'identità della sinistra italiana. E a questo tema è dedicato un libro appena uscito da Feltrinelli, Sinistra senza sinistra, idee plurali per uscire dall'angolo, 352 pagine, 14 euro. Si tratta di un lungo catalogo che parte, dice l'introduzione, dalla constatazione che la sinistra italiana è venuta meno nella battaglia delle idee, nella capacità di proporre un ricambio nella classe dirigente, nel legiferare tanto su questioni cruciali nel campo delle libertà individuali quanto sui grandi temi di coesione sociale. È una sinistra, dice appunto il libro nella sua introduzione, che si è fatta elitaria e conservatrice. E qua, in questo libro, troviamo molti tra i migliori nomi della cultura di sinistra, a ciascuno dei quali è affidata una voce: moderatismo, uguaglianza, turbocapitalismo e tante altre, fino a socialdemocrazia, la voce conclusiva che è affidata a Gianfranco Pasquino, il quale conclude affermando che il tempo delle socialdemocrazie è tutt'altro che passato. In assenza di una concreta e praticabile opzione socialdemocratica, osserva Pasquino, a nessun paese sarà dato di costruire una società più giusta. E naturalmente c'è da chiedersi se riuscirà la sinistra italiana a costruire questa piattaforma, che per la verità ha elementi molto contraddittori, almeno a considerare la pluralità delle voci e la contraddittorietà in certi casi delle voci e dei temi che vengono affrontati in questo libro. Sullo stesso tema si interroga il direttore della Casa della Cultura di Milano, Ferruccio Capelli, nel libro Sinistra Light, populismo mediatico e silenzio delle idee. È pubblicato da Guerini Associati, 190 pagine, 19 euro, anche questa è una voce da sinistra, che parla anche Capelli di povertà delle idee e tendenza alla omologazione. Il centro-sinistra, dice Capelli, è stato incapace di definire idee forti e punti programmatici, e la ragione, secondo Capelli, sta nel fatto che l'informazione ormai fagocita le idee. Scrive infatti che si è registrato un mutamento strutturale nel dibattito e nella vita pubblica. L'assorbimento della politica dentro il sistema mediatico ne cambia il ritmo e la natura e la indebolisce profondamente. E questo naturalmente vale anche per il centro-sinistra. Infatti, dice Capelli, la discussione nei partiti del centro-sinistra, ridotti a comitati elettorali e a centri di distribuzione del potere, si è spenta da tempo. Essa si svolge solo sulle pagine dei quotidiani amici o in alcuni salotti televisivi. I partiti sembrano aver rinunciato alla elaborazione politica e culturale autonoma. Capaci di elaborare proposte e programmi, essi sono permeabili e influenzabili da tutte le campagne mediatiche. Con la conseguenza, sempre Capelli, che la sinistra italiana ha tagliato le radici con il suo patrimonio di valori storici e ideali. Essa si è trasformata in una forza d'opinione con un profilo ideale e valoriale caratterizzato da un vago sincretismo. La sinistra è diventata incerta, evanescente, quasi indefinibile nei suoi tratti di fondo. Quindi, come vedete, parole severe per i propri compagni, che pongono un problema che tuttavia va al di là della situazione, delle condizioni della sinistra italiana, perché le riflessioni di Capelli, mi sembra, si applicano a tutti, anche a chi non è di sinistra, perché mettono il dito su quella piaga rappresentata dalla deformazione politica che diventa solo comunicazione, un tema che dovrebbe essere caro a tanti, non soltanto a sinistra. Ma è solo questione di soggezione alla comunicazione o non ci sono responsabilità dirette della sinistra per le sue attuali condizioni di debolezza? Una risposta viene nel libro Il mostro mite di Raffaele Simone, che porta come sottotitolo Perché l'Occidente non va a sinistra, è pubblicato da Garzanti, 174 pagine, 12 euro. Secondo Simone, la sinistra ha fatto molti errori politici. Parla Simone di rivalità interne, di retorica ipocritamente coltivata a proposito dei paesi comunisti, di eccessiva prudenza nel fare i propri offri mea culpa in una visione palingenetica che fa sentire spesso le persone di sinistra come portatori di un nuovo ordine morale, alla pratica del politically correct, il garantismo esasperato a favore degli imputati anziché per le vittime, e ancora, sempre secondo Simone, l'appoggio a cause perse, le chiama proprio così, come quella dei palestinesi. Il risultato di questi errori è che la sinistra è spesso scivolata, scrive Simone, in un pragmatismo politico privo di principi, di valori, di motivazioni etiche, in quel deserto culturale e morale che è la politica pura, qui viene citato Ruffolo. I suoi principi si sono fatti via via più light, torna la parola usata da Ferruccio Capelli, generici, scrive Simone, accomodanti, pronti a conciliazioni diverse, niente affatto esclusivi rispetto ad altre posizioni. Eppure un sistema politico democratico ha bisogno della sinistra, soprattutto alla luce della tormenta culturale, scrive Simone, nella quale ci troviamo, che viene riassunta appunto nell'immagine del mostro mite, cioè in quello che, secondo Simone, è il paradigma di cultura delle masse che alimenta il successo della neodestra. Ed è proprio nell'incapacità a vincere la sfida con questo mostro mite che si manifesta la debolezza della sinistra, che, conclude Simone, non ha saputo essere all'altezza dei tempi, cogliere le specificità che l'orizzonte della modernità portava e a cui la gente aderiva di slancio, con la sicurezza di fare qualcosa che incrementava il suo benessere, che arricchiva la propria vita e la rendeva moderna. Occorre per la sinistra, insomma, inventare di continuo nuovi buoni motivi per stare e restare a sinistra. Una testimonianza molto significativa, partecipata e intensa sui fallimenti di una generazione di sinistra o sulle delusioni è quella di Adolfo Scotto Di Luzio, contenuta in Napoli dei molti tradimenti, è pubblicata dal Mulino, 124 pagine, 10 euro. Parliamo qui di Napoli e della sua triste parabola negli ultimi 30 anni, che viene descritta con tutte le sue illusioni e contraddizioni tra una Napoli mitizzata e una reale di cui ci si ostina a non voler vedere le trasformazioni. Scrive Scotto Di Luzio che Napoli è stata anche un luogo esotico immaginato da adulti intrisi di romanticismo politico. Anche questo autore viene dall'esperienza di sinistra e quindi la sua testimonianza è particolarmente significativa per capire quali sono stati gli errori, anzi l'assenza finale della politica, un'assenza segnata dalle fugaci illusioni che aveva suscitato Antonio Bassolino. Ma Scotto Di Luzio ne ha anche per la società civile, alla quale imputa l'incapacità di aver saputo riportare la politica al centro del dibattito a Napoli. Sentiamo per esempio queste pagine molto critiche proprio sulla società civile napoletana. Lo sguardo sulla città che producono i suoi ceti colti è costantemente offuscato da questa indulgenza liricizzante ed egocentrica e dall'incredibile insensibilità che finisce per generare. Di fronte alla patente violazione delle regole, ai piccoli e grandi soprusi quotidiani, alle tante manifestazioni di un'inciviltà diffusa, che si manifesta innanzitutto negli spazi comuni, appena varcata la soglia di case che al contrario sono gelosamente custodite, nella sporcizia delle strade, nel modo di guidare e di parcheggiare, nelle conseguenze che tutti questi comportamenti hanno sulla vita pratica delle persone, di fronte allo stato permanente di minaccia che si respira in città, nell'atteggiarsi dei singoli, nel loro incombere fisico, nella sfida continua degli atteggiamenti provocatori, una risposta permette di passare sopra a tutto questo. È la risposta di chi distingue nel corpo stesso della città l'eletta schiera degli spiriti nobili dalla massa disperata ed incolpevole. Gli uni a fare discorsi pensosi sui destini della città, gli altri ad agitarsi senza un fine preciso, in una spirale di autodistruzione. Insomma, conclude Scotto Di Luzio, a Napoli è mancata la verità in questi anni. Un gigantesco apparato di menzogne ha fatto sì che la città potesse evitare di fare i conti con la sua irrilevanza. Il confettino. Vi presento oggi una collana che forse farà discutere alcuni puristi. Si chiama la collana Raccontami, grandi classici e più facili da leggere. Sono pubblicati da Bianco e Nero ed escono i primi due titoli di Giulio Verne, Il giro del mondo, di Jack London, Il richiamo della foresta, 14 euro ciascuno più CD con la lettura di Verne di Pierfrancesco Poggi e di London di Giulio Scarpati. Si tratta di versioni ridotte dei classici classici considerati. È un'operazione opportuna questa di presentare quelli che una volta avremmo chiamato dei bigini per indurre i più giovani alla lettura? Per la verità, questi libri si rivolgono espressamente ai lettori riluttanti, come li chiama l'editore. E anche la grafica quindi è pensata per rendere più facile la lettura. Frasi brevissime nella riduzione dei testi, periodi ben staccati, tutto per rendere sempre più facile la lettura. Naturalmente ci si può chiedere se a questo punto il prodotto finale sia simile all'originale, se non si perda gran parte del fascino che le opere originali possono suscitare. Ma ripeto, si tratta di un esperimento e come tale ve lo presento. Prima di salutarci vi segnalo che dal 31 ottobre al 2 novembre si svolge alla Fiera di Genova la prima edizione di un nuovo appuntamento per gli appassionati di libri antichi. Si chiama Libridine, Salone del Libro Antico esaurito e introvabile, dalle 10 alle 20, dal 31 ottobre al 2 novembre alla Fiera di Genova. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrandi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Passo la parola a Respiro di Laura Bettini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima. E con questo sospendiamo qualche minuto per le informazioni sul traffico.